Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note del preludio di Nino Rota iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Gianfilippo Cuneo. Buonasera. Gianfilippo Cuneo, presidente di Sinergo, società di private equity, poi ci dirà che cos'è Sinergo, ma iniziamo a chiedergli come mai Nino Rota, questa musica certamente appassionante, una musica di pianoforte, musica di un musicista italiano. Musicista italiano che è più noto per le musiche di, che hanno accompagnato i film di Fellini, ma eclettico e di qualità pari a Schumann, secondo me. Anche sulla musica possiamo avere fiducia degli italiani. Degli italiani bravi, sì. Ecco, la società di private equity Sinergo, Gianfilippo Cuneo ha una lunga esperienza nel campo finanziario, ha iniziato in McKinsey come molti altri protagonisti del sistema economico italiano, magari li citeremo più avanti, poi ha creato una propria società e infine adesso Sinergo. Che cos'è Sinergo? Cos'è una società di private equity? Questa è una società di gestione di fondi che vengono affidati alla società da parte di investitori istituzionali internazionali per essere investiti tipicamente in aziende non quotate e nel nostro caso in aziende che sono guidate da imprenditori. Quindi è un investimento sugli imprenditori? Sì, molto basato sulla qualità della persona, perché intanto ai business plan non crede nessuno, perché comunque i business plan a posteriori si rivelano sempre sbagliati o per eccesso o per difetto. Quindi è molto più importante investire nella persona che saprà cambiare il business plan secondo le opportunità che si presenteranno nei prossimi anni. Ecco, è difficile individuare le persone giuste. Ovviamente ci saranno anche molti imprenditori che bussano alla vostra porta per avere dei finanziamenti, per avere degli aiuti finanziari, per avervi come partner della loro società. Ovviamente voi dovrete fare una cernita, scegliere chi va bene, chi ha buone prospettive, chi non ha buone prospettive. Come avviene questa selezione? Beh, la selezione avviene soprattutto guardando alla storia, al track record, la qualità della persona, poi alla fine si misura anche con i risultati che uno sta avendo o ha avuto. Poi c'è una selezione basata anche sulle referenze, così come l'imprenditore deve prendere delle referenze su di noi, noi dobbiamo prendere delle referenze su lui, dai suoi clienti, fornitori, talvolta dai concorrenti e dai manager che sono passati nell'azienda. Alla fine ci si fa un giudizio e nella mia esperienza ci azzecchiamo 70 volte su 100 e 30 volte no. Ecco, in questo senso i fallimenti fanno anche parte appunto della logica poi di questo rischio imprenditoriale, anche il vostro è un rischio imprenditoriale, certo. In fondo. Ecco, ma come entrate in azienda? Non solo dando dei soldi, poi dopo una società di private equity acquista una partecipazione, solitamente di minoranza all'interno della società, però acquista anche un diritto di intervenire nella gestione. Ma i diritti sono solo delle protezioni nel caso qualcuno impazzisca o faccia delle cose con parti correlate che non sono ammissibili. È più importante invece il contributo positivo che non quello negativo di esercitare dei diritti, perché abbiamo delle esperienze complementari a quelle dell'imprenditore che possono essere messe al servizio dell'azienda, dell'imprenditore, sempre molto rispettosamente. Nessuno vuole imporsi, ma se abbiamo esperienze valide sarà lui che ci chiederà di aiutarlo, di mettere queste esperienze e anche questa energia al servizio del progetto. Ecco, magari senza fare dei nomi, ma in quali settori c'è maggiori possibilità di crescita? In quali settori state cercando di investire in maniera da avere appunto dei risultati positivi? Il settore è secondario rispetto alla qualità dell'imprenditore. Però ci sono dei settori che ovviamente anche un imprenditore molto bravo non riesce a condizionare, è un po' come quando Fogar andava al Polo Nord, lui camminava 30 km al giorno, ma il PAC andava a sud 35 km al giorno. Quindi le aziende che dipendono dall'economia italiana purtroppo non sono appetibili e non è saggio investire in queste aziende. Invece quelle che, partendo dal know-how dell'Italia, dal know-how storico, dalla base storica di clienti, ma si proiettano all'estero e hanno grandi opportunità di andare per il mondo, queste sono le aziende nelle quali vale la pena di investire. Ecco, queste ce ne sono, magari lo vediamo tra un attimo, però vorrei tornare proprio sul punto dell'Italia, perché non rischiamo come Italia di essere in un circolo vizioso, le prospettive sono negative, si investe di meno e quindi le prospettive sono ancora più negative e quindi questa Italia rischia di non farcela. No, infatti non credo che ce la farà, è un po' come Venezia quando Vasco da Gama ha dimostrato che si poteva andare in Oriente passando da un'altra parte che non i presidi tradizionali dei commerci veneziani. Venezia era avviata al declino e non c'era modo di evitarlo. Credo che l'Italia è un po' così. Le ragioni di scambio, le ragioni per cui si produceva in Italia per esportare in Germania, oggi si produce in Romania per esportare in Germania. Non c'è modo di contrastare questa perdita dei vantaggi competitivi dell'Italia. Ecco, però ci sono ancora aziende italiane, come dicevamo, che hanno una loro solidità, una loro prospettiva positiva perché sono aperte ai mercati internazionali. Esatto. Ecco, su questa prospettiva, i mercati principali quali possono essere? Si è parlato molto della Cina, adesso sembra che stia tornando un grande interesse per gli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono un paese che è molto flessibile, fa presto a entrare in crisi, ma fa presto anche a uscirne, ha il grosso vantaggio di battere la propria moneta e quindi può creare finta occupazione con la spesa pubblica, e quindi però nel breve termine questo ti dà dei notevoli vantaggi. Quindi direi che dove si va nel mondo dipende dall'azienda. E d'altra parte sono anni che diciamo che il mondo è ormai globalizzato, quindi parlare di Italia o di mercato locale è come parlare del New Jersey negli Stati Uniti, non ha senso. No? Ecco, in questa prospettiva, guardando appunto dal lato della, non tanto della domanda, ma dell'offerta, voi avete disponibilità finanziarie da investire proprio che provengono da questi investitori istituzionali. Non c'è un problema di liquidità, le risorse disponibili in teoria o anche in pratica possono essere notevoli anche in questa fase di difficoltà. Sì, ci sono risorse, noi abbiamo oltre 200 milioni da investire per esempio, ci sono anche altri che hanno risorse magari con un approccio di investimento diverso dal nostro. Il vero problema è che le aziende italiane tendenzialmente valgono poco perché non c'è una domanda internazionale per comprare queste aziende o per investire in queste aziende. Quindi noi parliamo di un segmento, un sottosegmento delle aziende private italiane che potrebbe rappresentare un 50% delle aziende che sono appetibili. Certo. In Italia ci sono, da un'analisi del CERVET, sono state contate 35.000 aziende con fatturati fra i 5 milioni e i 250 milioni. Non tutte hanno una proiezione internazionale, quindi solo quelle che hanno proiezione internazionale hanno un valore, le altre non credo che abbiano grandi valori. È come diceva un banchiere nei giorni scorsi, che anche le banche, che molto spesso sono sul banco degli imputati per non dare credito alle imprese, in teoria avrebbero possibilità di dare credito, ma manca la domanda, mancano le aziende che diano l'affidabilità necessaria per avere anche il normale credito bancario. È così, d'altra parte ci sono 150 miliardi di crediti fatti dalle banche a delle aziende che non li ripagano. Quindi da una parte c'è più attenzione delle banche a chi dare il credito e chi invece è solido oggettivamente non ha tanto bisogno di credito per operazioni ordinarie. Per operazioni straordinarie invece sì, allora però le operazioni straordinarie si fanno non soltanto col credito ma con iniezioni di capitale di rischio. Ecco, però è necessario almeno da italiani cercare di invertire questa tendenza, cercare di far uscire questo paese dalle secche in cui si trova. Incontri. Ancora con le note di Nino Rota, un preludio di Nino Rota, un grande musicista italiano, riprendiamo il nostro incontro con Gianfilippo Cuneo, presidente di Sinergo, società, una delle principali società italiane di private equity. Gianfilippo Cuneo, un rappresentante di prima linea della finanza italiana, un sistema finanziario che è fondamentale nell'appoggio al sistema imprenditoriale, al sistema produttivo per far crescere il paese. Abbiamo detto prima, l'Italia ha grandi difficoltà all'interno, ha prospettive positive per le aziende che si internazionalizzano, che riescono non solo a esportare i loro prodotti ma anche a creare delle strutture per essere più vicini ai mercati internazionali. E allora le prospettive dell'Italia, Gianfilippo Cuneo, sono certamente non molto positive. La crisi del 2009, questa grande crisi finanziaria che ha coinvolto un po' tutto il sistema occidentale, ha trovato un'Italia forse più fragile degli altri, che è riuscita più difficilmente degli altri ad affrontare questa situazione. Ma la crisi del 2009 è stata un momento che ha confuso le idee. L'Italia era ed è in declino da 15-20 anni. Quindi il fatto di chiamare la situazione attuale crisi è totalmente sbagliato. La crisi è un momento. I paesi che non erano in declino hanno assorbito questa crisi. L'Italia che è in declino non può essere detta in crisi, è in declino. Quindi il declino è un fatto strutturale, nel senso che sono venute meno le ragioni di scambio, di competitività che c'erano una volta con il resto del mondo. E l'Italia dimostra di non voler fare le riforme che sarebbero necessarie, non per cambiare il declino che è inarrestabile, ma per attenuarlo. Quindi quando parliamo di riforme del mercato del lavoro, della giustizia, della fiscalità, parliamo solo di parole, certo. Non ci sono fatti. E quindi tutto il mondo guarda l'Italia che continua a parlare, e vede che non ci sono fatti, e quindi il mondo dirà: il giorno che li avrò visti, forse qualcosa cambierò come idea, ma non mi accontento certo più di parole. Insomma. Ecco, le imprese più dinamiche sotto questo profilo sono quelle che dicevamo, appunto, si internazionalizzano. La vicenda Fiat Chrysler in questa prospettiva è emblematica. Beh, tutte le aziende che lavorano nel mondo sanno che parliamo di un mondo dove ci sono 3 miliardi di persone che possono comprare dei prodotti, quindi bisogna avere una dimensione adatta a 3 miliardi di persone, non ai 50 passa milioni di persone che ci siamo in Italia. Quindi è fondamentale, le aziende italiane operano in nicchie, ma anche in ciascuna di queste nicchie bisogna avere come ambizione essere fra i primi 3 nel mondo. Ecco, indubbiamente l'Italia ha anche dei punti di eccellenza in molte aziende, nel settore tessile, nel settore meccanico, che hanno ottenuto degli ottimi risultati sul fronte proprio dell'internazionalizzazione. La borsa italiana resta ancora una borsa piccola, si parla di una ripresa delle offerte, dei collocamenti in borsa che avevano avuto un certo boom all'inizio degli anni 2000, poi sono quasi completamente fermate negli ultimi anni. Vede delle aziende che possono entrare in borsa nei prossimi mesi e magari dare qualche soddisfazione anche ai risparmiatori, oltre che avere delle risorse loro per poter ulteriormente crescere? Io credo che la borsa sia sempre un'opzione per finanziare le imprese, ma realisticamente funziona quando le dimensioni sono significative, parlo di qualche centinaio di milioni di fatturato e dei risultati economici brillanti, quando i tassi di crescita continuano, no? Perché bisogna raccontare una storia per gli investitori per convincere a investire. In Italia si parla molto spesso di borsa tanto per parlare, e nessuno dà una multa, nemmeno i giornalisti danno una multa a chi parla a sproposito, perché ho visto delle ipotesi di quotare delle aziende grosse tipo le Poste che non hanno nessun senso da un punto di vista economico, perché non c'è una storia di crescita Poi magari si parla di privatizzazione quando si vende il 10%. Anche lì io darei una multa a chi usa queste parole improprie perché confonde le idee. Ecco, in questa prospettiva certamente il sistema finanziario magari è un sistema complesso, però è un sistema che richiede trasparenza. Il sistema italiano forse è ancora un po' poco trasparente. Ma più che trasparenza, collimazione di obiettivi. Un paese dove c'è un premio di maggioranza vuol dire che non c'è una collimazione di obiettivi fra l'azionista di maggioranza e gli azionisti diffusi. Quindi poi non parliamo degli Stati Uniti che hanno i problemi e anche loro non sono esenti da critiche, però il sistema italiano è quello dove tutti sospettano che sia più importante comandare che non fare soldi. Ecco, in questa prospettiva lei tiene molto a dire che investe più sugli imprenditori che sulle imprese. L'Italia è un paese di imprenditori, oltre che di santi, di navigatori, di poeti, no? È un paese in cui le partite IVA sono tantissime, sono tutti potenziali imprenditori, quindi c'è una imprenditoria diffusa, un'imprenditoria diffusa che però fatica poi a diventare un'impresa non dico di grandi dimensioni, ma di dimensioni significative. Perché questa difficoltà? Cioè il DNA dell'imprenditore c'è, ma poi non riesce a diventare un albero, diventa solo un piccolo esile fuscello. Prima di tutto non è un mestiere facile, e quindi se uno anche ha il DNA, ma è in un settore che non dà sviluppo, è difficile diventare oggi in pregilo se uno parte con una piccola azienda edile o cose del genere. Poi ci sono problemi di tipo finanziario, ci sono problemi di tipo culturale, però diciamo, io constato che ogni anno imprenditori noi ne vediamo decine e decine, e naturalmente vediamo quelli che hanno iniziato 20 o 30 anni fa e hanno avuto successo, non vediamo quelli che sono rimasti al palo. E che magari però adesso hanno un problema di passaggio generazionale, anche questo è un problema che un'azienda come la vostra, che investe nelle imprese e che investe appunto sugli imprenditori, deve affrontare. Sì, normalmente l'imprenditore è chi ha fondato l'azienda e non il figlio di, quindi noi investiamo sull'imprenditore vero, non quello che si chiama imprenditore perché ha ereditato l'azienda. In un contesto che oggettivamente è più difficile di quello che era anni fa, anche gli imprenditori si rendono conto che è diventato più rischioso fare un passaggio generazionale verso un figlio che non ha le caratteristiche per operare sui mercati mondiali o comunque che è meno bravo di quello che potrebbe essere un manager ben guidato. Ecco, un manager ben guidato, questo è anche una necessità per le imprese italiane. Per un giovane che volesse appunto fare una startup, iniziare un'avventura imprenditoriale, che consigli darebbe? Prima di fare un po' di errori da qualche altra parte, e la startup come fuga in avanti, uscendo dall'università perché non si trova un lavoro, uno fa una startup, non è un buon metodo per iniziare. Bisogna prima imparare come funzionano le cose nelle aziende e poi dedicarsi magari a qualcosa che però abbia un valore tecnologico. In Italia si confonde molto le startup tecnologiche, che sono quelle che hanno fatto la fortuna storica del venture capital, con le startup che producono un modo nuovo di fare commercio o cose del genere, tutte cose molto labili che non hanno la forza e il valore di una startup tecnologica. Ecco, in questa prospettiva l'università riesce a seguire i tempi, cioè a preparare in qualche modo i giovani a questo nuovo mondo molto più complesso e in un certo senso anche che offre maggiori possibilità, perché adesso fare un'impresa tecnologica anche con internet, con tutto quello che lega attorno a internet, costa molto meno che non una volta quando si doveva comprare un tornio, una pressa o qualcosa del genere. L'università credo che illuda un po' che sia facile fare le start-up, perché poi parliamo sempre di quei due o tre casi di grande successo e ci dimentichiamo le migliaia di casi di fallimenti per strada. Quindi io non sono favorevole alla glorificazione di questa attività di start-up. Prima lavorare, poi lavorare bene, poi semmai una volta che uno ha capito dove andare, dedicarsi a sviluppare un'azienda. Normalmente è più facile comprarne una e svilupparla che non partire da zero. diamo allora un consiglio da un finanziere a chi ha, mettiamo, 100.000 euro da investire per 10 anni e voglia appunto contribuire in qualche modo alla crescita del paese. Proprio concretamente, come può fare? Sinergo, sappiamo, ha detto, riceve dei fondi da strutture istituzionali, non tanto dai singoli privati. Come può fare un privato per partecipare al venture capital, alla private equity? Io penso che non deve partecipare, perché è un'attività troppo rischiosa e che deve essere fatta in un'ottica internazionale, e chi ha 100.000 euro è meglio che li mette in un fondo che opera su base mondiale piuttosto che fare qualcosa di tipo italiano. Singolo. La prima regola dell'investimento è sempre la diversificazione del rischio. E soprattutto di far fare a chi sa fare le cose che vanno fatte, cioè quindi la competenza in questo campo è fondamentale. Sì. Ecco, ma guardando in prospettiva, il sistema finanziario italiano potrà riuscire ad allargarsi, ad offrire delle opportunità anche agli investitori internazionali. Cosa può fare? Si parla di nuovi provvedimenti, di dimensione Italia, di cercare di arrivare in Italia degli investimenti finanziari. Cosa si può fare? Beh, prima di tutto bisogna fare queste cose seriamente, cioè chiedere non a dei funzionari dei ministeri o dei politici italiani cosa pensano che si debba fare, ma chiederlo veramente agli investitori istituzionali. Noi abbiamo un ministro degli esteri, Emma Bonino, straordinaria, ma certamente non chiederei a lei di immaginare che cosa attrae gli investitori. E gli investitori direbbero libertà nel mercato del lavoro, chiederebbero la certezza del diritto, sia fiscale, certo, che meno che burocrazia, societaria. Certo. La burocrazia è un po' una scusa, perché alla fine le aziende italiane sanno cavarsela anche con la burocrazia, ma la burocrazia arriva al posto 27 degli ostacoli. Gli altri 26 sono cose molto concrete, che sono soprattutto il mercato del lavoro, flessibilità, certezza del diritto. Adesso vedremo questo Jobs Act che Matteo Renzi sta preparando, ma un politico le ha mai chiesto un consiglio concreto? Qualche volta sì, ma poi non li vogliono sentire. Quindi, E poi vanno comunque per la loro strada. Grazie a Gianfilippo Curio, presidente di Sinergo, società di private equity, di essere stato con noi, di aver parlato delle prospettive con tutti i problemi che ci sono dell'economia italiana, un'economia che sicuramente, come detto, ha tanti problemi, però merita comunque di essere continuamente osservata, di essere magari anche accompagnata a cercare di risolvere questi problemi. Grazie Gianfilippo Curio, grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.